Hashtag Autotrasporti. Hashtag autotrasporti del sabato, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Apriamo con la riforma dei porti. Il piano strategico della portualità e della logistica sarà presentato ufficialmente dal ministro Graziano Del Rio entro le prime settimane di giugno, ma il testo è ormai noto. In 195 pagine viene ridisegnato il sistema degli scali partendo dalla gestione. Dalle attuali 24 autorità portuali si passerà ad 8 autorità di sistema portuale, ognuna per un'area geografica. Il ministero eserciterà l'attività di coordinamento e di indirizzo attraverso un nuovo soggetto, la Direzione Generale della Portualità e della Logistica. L'obiettivo in sostanza è fare sistema per attirare i traffici. Il piano prevede lo snellimento delle procedure doganali, altro elemento che in questi anni ha contribuito a penalizzare gli scali italiani. La riforma dei porti interessa da vicino gli autotrasportatori che però sottolineano di non essere stati consultati dal Ministero. Il presidente di Unatras, Amedeo Genedani, al microfono di Francesco De Remigis. Nella stesura dei grandi suggerimenti non siamo stati in grado di darli per il semplice motivo che non siamo stati convocati nell'incontro in cui si valutava la logistica e la portualità, cioè il rappresentante dell'autotrasporto non è stato convocato, quindi non eravamo presenti e non potevamo portare il contributo nel merito. Il governo attuale speriamo di riuscire a aprire un dialogo, perché stiamo chiedendo incontri su incontri, lettere su lettere per chiedere incontri al ministro Del Rio che non ci hanno ancora convocato. Speriamo che qua in giugno venga convocata la categoria dell'autotrasporto, che si cominci a riscrivere alcune cose, ma soprattutto io penso che la logistica, il trasporto e la navigazione debbano essere una stessa cosa unitariamente, cioè quindi portate avanti nello stesso modo. Nel piano di riforma un capitolo è dedicato al porto di Genova, definito affollato e dissociato dalle logiche indicate dall'Unione Europea. E ora nello scalo ligure anche gli autotrasportatori entreranno solo muniti di badge elettronico. Lo ha stabilito il comitato portuale nell'ambito delle nuove misure di sicurezza, una rivoluzione che potrebbe rallentare le operazioni di transito dai varchi con conseguenze pesanti per il traffico sull'intero nodo genovese. Dai porti alle autostrade torniamo insieme. Sicilia. Lunedì il governo ha deliberato lo stato di emergenza per il blocco dell'A19. Significa che al più presto, ma non è ancora chiaro quando, partiranno i lavori per la realizzazione del bypass attraverso il quale sarà possibile aggirare il tratto interrotto. Il blocco annunciato per la prossima settimana dalle associazioni locali degli autotrasportatori è stato revocato dopo la convocazione da parte del ministro Del Rio. L'incontro è in programma mercoledì al Ministero. E di infrastrutture si parlerà mercoledì a Roma nel convegno organizzato da ConfCom Commercio e Conftrasporto. Italia disconnessa è il titolo. Ce lo spiega Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto. Significa le opere che non sono state fatte, l'incapacità di raggiungere i mercati europei, i porti che potrebbero accogliere le merci che entrano nel Mediterraneo e farli giungere sempre sui mercati europei attraverso i corridoi come quello di Genova, che congiunge Genova con Rotterdam. Oggi avviene esattamente il contrario, le merci arrivano a Rotterdam e vengono su Genova. Noi dobbiamo immaginare invece un'Italia che attraverso infrastrutture decise da una politica dei trasporti si connetta all'economia europea. Bisogna fare delle scelte di politica dei trasporti che siano idonee a superare i colli di bottiglia, a superare ed aumentare la capacità di accogliere e trattare le merci. Io per attraversare e far uscire le merci da un porto ci metto 18 giorni e ce ne mettono 7 o 10 in Europa, è chiaro che le merci non vengono trattate in Italia, quindi l'Italia non è connessa a che cosa? Al sistema economico europeo. Come avevamo anticipato sabato scorso, nei confronti della Germania la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'applicazione della nuova legge sul salario minimo all'autotrasporto straniero. Per Bruxelles la norma violerebbe il libero scambio delle merci e della fornitura di servizi. La decisione è stata criticata dall'Associazione delle imprese di trasporto e logistica tedesche BGL, secondo la quale per contrastare il cosiddetto fenomeno del dumping sociale occorre stabilire regole e condizioni valide per tutti. Hashtag autotrasporti del sabato termina qui. Prossimi appuntamenti lunedì sera alle 21.45 e mercoledì alle 13.45. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.